Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo La chiamavamo Terra Santa, scritto da Alessandro Fea e Stella Novari. Con Stella Novari, sonorizzazioni e live music Alessandro Fea. In scena a Roma, al Teatro Cometa Off, 15 e 16 aprile 2025. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta. Ehi, mi senti? Ti ho detto continua a scrivere. Mi senti? Al lettore, ricordo che capita a volte che la persona che scrive sia molto diversa dalla persona che vive. Una bambina con due figlie e qualche esperienza, ma di animo totalmente candido. Vivevo la mia vita da giovane moglie serena, aspettando come tanti che la vita mi desse qualche gioia in più. Scrivevo poesie, davo ripetizioni a qualche alunno e accudivo le mie bambine. Però ogni tanto mi si intorpideva la mente. Una sensazione stranissima. Provai a parlarne con mio marito, ma lui non riuscì a capire. Allora il mio esaurimento si aggravò e con la morte di mia madre, alla quale ero molto legata, peggiorai. Dove sei stato? Dove sei stato? Perché non mi hai telefonato? Ho passato tutta la sera ad aspettarti. Dove sei stato? Perché zitta? Io non voglio stare zitta. Voglio sapere dove sei stato. cantato il Conquista sera. Che cosa c'entrano le bambine? Stanno dormendo le bambine. Certo che hanno mangiato le bambine. Cosa fai? Non ti fidi? Mi dici, mi guardi mentre ti parlo? Mi dici per favore con chi sei stato stasera e dove? È bastato un mio schiaffo. Io che da lui ne avevo ricevuti tanti. Ha fatto una telefonata. È arrivata l'ambulanza. Mi hanno portato in manicomio. Internata a mia insaputa. Io poi a quell'epoca non sapevo neanche dell'esistenza degli ospedali psichiatrici, perché non li avevo mai veduti. A quei tempi la mia mente non conosceva questi ghetti qui. Poi a quei tempi le leggi erano precise. Nel 1961 la donna era ancora assoggettata all'uomo e l'uomo poteva prendere decisioni riguardo il suo futuro. Appena entrai, credo che impazzì all'istante. Mi resi conto che ero entrata in un labirinto da cui avrei fatto molta fatica ad uscire. Una sensazione di totale spaesamento prese il sopravvento. Qualsiasi possibilità di movimento. La mente invece andava ovunque. Nella speranza di trovare ristoro dalla sofferenza, in qualche sogno, in qualche ricordo. Si chiudevano per la notte, mi faceva impazzire. Era un suono che entrava nella carne e nel cervello come una lama. Il rumore delle spalle che si chiudevano per la notte mi faceva impazzire. Era un suono che entrava nella carne e nel cervello come una lama. Il rumore delle spalle che si chiudevano per la notte mi faceva impazzire. Era un suono che entrava nella carne e nel cervello come una lama. sera, e la sua lettera la carne del cervello come una lama. Il rumore delle sbarre che si vedevano per la notte mi faceva impazzire, e la sua lettera la carne del cervello come una lama. Il rumore delle sbarre che si vedevano per la notte mi faceva impazzire, la sua lettera la carne del cervello come una lama. Il rumore delle sbarre che si vedevano per la notte mi faceva impazzire. Cicala, piccola, grassottella e canterina. Per la formica, la cicala è una povera sciocca. Ma lei, a furia di lavorare, si è ridotta il cervello come la rotellina di un grosso ingranaggio. Ma le sfugge completamente l'idea di Dio, che io invece coltivo nel mio cuore. A Dio e al creato io canto le mie canzoncine estive. E se poi rabbrividisco di freddo nell'inverno, che conta? Quello che importa per me è vivere il momento che passa, è essere circonfusi di luce nell'aria del meriggio, questo importa. Della mia morte corporale mi importa ben poco. Ma quando arriva l'inverno e io vado a bussare alle porte della formica, mi vedo cacciata fuori a vituperi. Povera sciocca, crede di avere la supremazia perché se ne sta caduto dentro casa con tutti i suoi viveri. Povera micragnosa. Ma se io muoio, stecchita, io avrò una sepoltura degna sotto la neve, perché il pensiero mi è rimasto libero. E perché no, io credo nell'aldilà degli insetti. L'effetto delle medicine, un po' il trattamento che avevo subito, rimasi in stato di semicoma per 3 giorni ed avvertivo solo qualche voce, ma la paura era scomparsa e mi sentivo rassegnata alla morte. Adam, Alda! Alda, Alda, svegli, dobbiamo andare, sono venuti a prenderti. Sta dormendo. Alda, Alda, Alda, Alda, tuo marito e tua sorella. Dai, Alda, vieni. Alda, Alda, svegli. Alda, Alda, Alda. Ehi! Alda, Alda, Alda. Ehi! Alda, Alda. Su, dai, su, svegli. Alda, Alda. Dai che non abbiamo tempo da perdere, su! Uno sbaglio, ma io non voglio andare con loro. Perché nessuno mi chiede perché io non voglio andare con loro? Nessuno mi chiede perché non voglio andare con loro. Perché nessuno me lo chiede? Nessuno mi chiede perché io non voglio andare con loro. Quel mio rifiuto di tornare a casa fu preso dai medici come la mia accettazione del prolungamento del ricovero, che mi costò 10 anni di coercizione punitiva. E io ero stata tradita dall'uomo che amavo. Come potevo seguirlo a casa? Come potevo seguirlo a casa? Che mi lasciassero i quaderni. Non volevano, dicevano che era vietato. Poi il dottor G riuscì a farmeli avere, a patto che non li avessi mai dati a nessuno, penne comprese, perché potevano essere pericolose. Scrivere aiuta la mente, lo sai? Certo che lo sai. Mettere nero su bianco le cose le fa fissare meglio. Le parole sono vive, hanno tutte una vita propria. Ogni singola parola ti parla, ti emoziona, ti riporta all'emozione di quando l'hai scritta. Il dottor G mi voleva molto bene. Aveva una grande volontà di guarirmi. E scrivere mi aiutava molto, anche se la mia sensazione di spaesamento continuava, però scrivere mi aiutava a mantenere la mente attiva, nonostante tutti questi farmaci, nonostante i rumori, nonostante i silenzi, nonostante tutto. Ricordo che un giorno successe una cosa meravigliosa. Ci aprirono i cancelli e ci dissero che finalmente potevamo uscire. Così, all'improvviso, Dio, cosa successe dentro l'anima nostra? Fu uno sciamare di vestaglie azzurre verso l'alba. In quel giorno scesi in giardino di corsa, mi inginocchiai davanti a un pezzetto di terra e mi pulì quel terriccio con una fame primordiale. Fu un giorno grande, il giorno della nostra prima resurrezione. Da quel giorno cominciamo a vestirci, a pettinarci, a curare il nostro aspetto, perché fuori c'erano gli uomini. Questi detti conosci le persone più disparate, più diverse. Ed è incredibile i segni che si avvertono su quelle facce di reclusi, anche dopo poco che stanno dentro, lo schifo che fanno, in che stato diventano. E poi tu stessa diventi una di loro. E fuori nessuno ti riconosce più. E tu diventi il protagonista delle metamorfosi kafkiane. Corpi e le nostre anime dovevano per forza diventare belle. Un giorno un ragazzo si procurò una chitarra, non so come riuscì ad averla, e iniziò a suonare per noi nei giardini del manicomio. Aveva una voce deliziosa e cantava inni guardando il cielo. Scompariva tutto, scomparivano le sbarre, e c'era solo l'aria, e c'eravamo noi, diventati piccoli, tanti piccoli figli di Dio. Però questa cosa era come se desse fastidio agli infermieri. Loro ci trattavano come bestie nei recinti. Gli davamo fastidio. Non voglio! È fritta! È gelata, per favore, non voglio! Mi sono lavata da sola io! Mi sono sempre lavata da sola io! Per favore, per favore! Alzalo! Alzalo, che è caduto! Alzalo, aiutalo! Per favore, ti prego, basta! Per favore! È gelata! Mi sono lavata da sola io, basta! Gli davamo fastidio. E quel ragazzo gli dava fastidio perché ci regalava momenti che spezzavano l'inferno in cui eravamo calati. E quindi un brutto giorno una caposala gliela ruppe la chitarra. Fu una scena orrenda. Però per fortuna qualche giorno dopo, con l'aiuto del dottor Zeta, riuscimmo a fargliene avere un'altra. E così continuammo le nostre dissacrate preghiere, cantando finalmente al cielo. Yeah! moribonda. La pazzia mi visita almeno 2 volte al giorno. I folli sono quelli che resistono agli amori facili. Io non ho paura della morte, ma ho paura dell'amore. Ogni uomo inventa il suo tipo d'amore. Ci sono giorni che non si staccano dalle pareti. Ci sono notti che non accadono mai. Io illumino sempre gli altri, ma io rimango sempre al buio. Sono una piccola ape furibonda. Sono una piccola ape furibonda. Sei stanca, vero? Ci sono io adesso con te. Mi siedo qua. Posso? Che belli questi. Hai ricominciato a scrivere? Sono contenta. Sono bellissimi. Che bella grafia che hai. Anche i disegni. Che meraviglia. Hai scritto tanto. Posso? Nel recinto degli uomini, Aldo era il più alto e con 2 occhi immensi e stravolti. Era visibilmente pazzo, ma con un che di infantile che non poteva non commuovermi. Insieme ad altri ammalati stava dietro ad un recinto di reti e gridava tutto il giorno a squarciagola, quasi che ce l'avesse con il cielo che l'avevano messo lì dentro. Più lo osservavo e più capivo quanto la sofferenza umana raggiunga a volte degli apici. E allora decisi di parlare con gli infermieri e fare un patto. Sarei stata buona per un periodo, ma dovevano lasciare Aldo all'aperto per qualche ora al giorno. Una sorta di reciproco ricatto. In fondo era un uomo che non faceva male a nessuno, si limitava a gridare e a imprecare. E nonostante fosse pieno di serenasi, Aldo non aveva alcun senso della sua grande mascolinità e con le grosse mani non faceva che tagliare, strappare l'erba e portarsela alla bocca, come un cavallo forsennato che avesse fame. A me chiedeva solo sigarette e mi diceva spesso, guardandomi dritto negli occhi, «Sei dolcissima». Poi a volte mi carezzava teneramente la pelle e guardava se mai sorgesse in me una visibile emozione. «Ma tu sei donna?» mi chiese una volta. «Certamente», risposi io. «Non mi sembra. Guarda, io sì che sono un uomo». E tirò fuori il suo pene dritto come un'alabarda che subito mi impaurì. «Non devi fare questo, Aldo. Ricordati che ti tolgono il permesso». «Ma io sono un uomo», continuava a ripetere. «Certo che sei un uomo», gli dicevo io, «solo che adesso devi pensare a curarti». «E i miei figli?» «I tuoi figli sono in mani buone, e anche tu, perché io ti voglio bene». E mi abbracciò, e rise forte, e mi fece rotolare per terra, e mi riempì di baci, che non avevano nulla di adulto. Erano baci di un bambino teneramente commosso. Quando lo riaccompagnai al reparto, Aldo era visibilmente fiero di starmi a fianco. «Vede?» disse al suo caposala. «Questa è la mia donna». E mi fece un largo inchino che pareva una genuflessione. Io annuì ridendo. In fondo piaceva anche a me di avere un amico così sincero. E poi forse in fondo Aldo non era più tanto malato. Almeno questa era la mia impressione nel conoscerlo giorno dopo giorno. Un uomo provato dalla vita sicuramente, ma non malato fino al punto di essere trattato così. Ma lo stare dentro peggiorava per lui, come per tutti noi, le cose. Il manicomio non guarisce, non aiuta, uccide. E un giorno in cui Aldo mi portò delle rose bianche, mi disse tra le lacrime: sai, Alda, mi trasferiscono. Dicono che sono inguaribile. Ma non è possibile, dissi io. Tu devi stare bene per i tuoi figli. Ma dovetti arrendermi alla realtà. E quella volta piansi un profondo dolore per la sorte di Aldo e per la sorte di tutti coloro che non potevano sconfiggere quel terribile male. Cominciai ad accettare quell'ambiente come buono, ma non mi rendevo conto che andavo incontro a quello strano fenomeno che gli psichiatri chiamano spedalizzazione, cioè quando rifiuti il mondo esterno e cresci unicamente in un mondo interno, senza tempo. Mi ero fatta anche un concetto molto dolce, cioè che io fossi un fiore e crescessi in una aiola deserta. La società per me era morta. I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro. Quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore, i poeti lavorano nel buio, come falchi notturni o usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere il Dio, ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Pensavo che dentro stavo anche meglio. A casa non riconoscevo più nessuno. Li guardavo e mi sembravano tutti così estranei. Le mie due figlie, nella mia mente malata, i figli dovevano per forza far parte del mio grembo, del mio io, del mio corpo. Finché li portavo dentro di me, avevano un senso, ma quando li mettevo al mondo, le sensazioni che provavo erano così forti e confuse che mi facevano pensare al mito di Cronos, che divora la sua progenie. A volte mi comportavo come una bambina. A volte diventavo io stessa la figlia di me stessa. Una volta mia figlia mi disse: da quando sei stata ricoverata ho imparato a farti da madre. Questa cosa mi colpì come una fucilata in pieno petto. Come osava dirmi una cosa del genere? Da quel momento la odiai. Però forse nel profondo aveva ragione. Mio marito lo odiavo forse. Quei sorrisi falsi, quelle finte carezze. Chi era veramente? Eppure ero di nuovo qui a dovergli fare da moglie dopo quello che avevo passato. Perché non mi vedi? Perché non riesci ad amarmi per quella che sono? Che cosa sono io per te, eh? Sono solo carne per la tua prole, questo sono diventata. E voi? Voi vi vergognate di me, io lo so, perché mi lasciate qui da sola al buio, senza neanche una luce, neanche una luce. No, non voglio mangiare adesso, voglio mangiare dopo. Mamma, dove sei? Mamma, si vergognino di me, mi lasciano da sola. Io non voglio stare da sola, senza neanche una luce. Ho detto che mangio dopo. Mamma! Che cosa ho fatto io di male? Io mi sentivo solo un po' persa. Un po' persa. Mamma! Mamma, dove sei? La mia anima. Dove sta la mia anima? Persa in qualche limbo di pensieri. Dimenticata in una buia cella. Dove forse per qualche istante ho ritrovato qualcosa del mio essere. Io non voglio tornare lì dentro, per favore aiutatemi, per favore. La luce, quella luce, quei rumori, per favore aiutatemi. Essere vuoti dentro. Fuori c'è tanta musica, tanta aria da respirare, e l'immobilità del cuore è la cosa più arida e inumana che esista. Non so perché le scrivo queste cose. Sono appena le 4 e tutti sono in piena efficienza. Io non vedo l'ora di andarmene a letto, per dimenticare tutto, la mia impotenza, la mia incapacità di ricevere e donare. Tutto. Di nuovo il rumore delle porte che si chiudono dietro di me, il silenzio, le urla dei malati di notte. Di nuovo il rumore delle porte che si chiudono dietro di me. Il silenzio, le urla dei malati di notte. Thank you. si siede mai nessuno. Non so se ci sono delle piastrelle o del linoleum o della vernice fresca. Chi vi ha verniciato le mani? Un secondino, immagino. Ma ieri è venuto a una visita. Una parola, parola, parola. Mi bacia le labbra e pronuncio la parola. Perché sono stata muta per tanto tempo? Hanno messo vicino alla mia branda, anzi, ai miei brandelli, una piccola ampolla d'aria. Certamente è Venere in festa, ma se io sono Venere, gli amorini dove se ne sono andati? Parola di Venere. Riuscirò a sopportare questa vita di inferno perché mia madre non era poi così cattiva. Ho un vago ricordo di mia madre. Doveva essere un oboe, una donna con una pancia, un fiato enorme, forse la musica. Mi domando perché mi lasciano da sola. Io ho parlato per tanto tempo, però adesso non vedo ferite sulle mie mani. Comincio a pensare di avere il sangue degli dèi. Una sedia sola e per giunta rotta, non un tavolo, non un po' d'inchiostro e il nero dell'inquietudine. Mio marito non veniva mai a trovarmi. Ogni giorno mi appostavo davanti all'ingresso e mi accoccolavo per terra, proprio come una geisha, e aspettavo per ore che lui si facesse vivo. Poi, vinta dalla stanchezza, con le lacrime agli occhi, tornavo nel mio reparto. Io lo amavo tanto, ma lui si teneva alla larga dalla sua folle moglie. C'era un medico anziano, pazzo che più pazzo non si può. Un giorno mi manda a chiamare. Lei! Numero 17! Sì? Si vergogni! E perché? Lei è innamorata di un prete! Sì, sì, sì, lo so, lo devo ammettere. Si vergogni! Perché? Lei ha 40 anni! Gli dà fastidio? Si vergogni! Lei è sposata! Sposata? E con chi? Ma come con chi? Con suo marito! Mio marito? Ma se non viene mai a trovarmi quello lì, di quale marito sta parlando? Me lo chiama marito? Che cos'è un marito per lei? L'ho subito smontato. Noi malati dovevamo far ragionare i medici. Eravamo noi a dover tenere i piedi per terra, altrimenti loro si lasciavano andare a delle cattiverie incredibili. E le donne? Ah, le donne. Le donne erano le peggiori con le donne. C'era la capa. Una donna bellissima e priva di qualsiasi sentimento umano. Lei godeva tantissimo a veder star male noi pazienti. Aveva una voce perentoria e stridula. Mi voleva morta, lo so. Un giorno si beò di parlare con me e mi trattò dandomi del tu. Certo, mi ricordo soprattutto come si uccidono i poco di buono come lei. Legate dal letto con le fascette di contenzione e non fatele vedere nessuno per una settimana. Anzi, fatele anche un bel elettroshock. Così rimettiamo ogni valvola al suo posto. Come se io non fossi una donna, ma un misero reperto di guerra. Per fortuna c'era il dottor G. Avevo detto, basta elettroshock camerini! Alda, mi dispiace tanto. Guarda, ho un regalo per te. La vedi quella? È una macchina da scrivere, è tua. No, dottore, io non sono più in grado. Alda! Ho detto che tu sei benissimo in grado di scrivere e ne voglio di nuove di poesie, non di vecchie, va bene? Certo, dottore, certo. Ci provo. Promesso. Andiamo. E piano piano, giorno per giorno, ripresi in pieno la mia attività poetica. Passai così 5 anni e una volta mi diedero il permesso di andare a casa per qualche giorno. Fu in quell'occasione che concepì la mia terzogenita. Ne fui contenta e passai 9 mesi meravigliosi. A dispetto del luogo in cui mi trovavo. Le ammalate mi davano la lana per fare le scarpette e cose piccole piccole. Una mi regalò anche una valigia. Adesso mi volevano tutte bene. In gravidanza tutti i miei sintomi scomparevano e io tornavo ad essere una persona normale. Il dottor G sospese ogni terapia e io ritrovai me stessa. Mi innamorai di Pierre, il ricordo più bello di tutta la mia degenza. Stavo ore con il capo appoggiato sulla sua spalla e lui mi carezzava il grembo, le mani, a volte il seno. Veniva anche Aldo a farci compagnia. In fondo, quel figlio era un po' anche suo, il figlio del manicomio maledetto. La piccina venne alla luce in tutta la sua bellezza. E appena nata me la portarono subito via. La morale era che io i figli dovevo affidare ad altri, perché secondo loro non ero in grado di essere madre. Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo oscuro, sotto il candore impetuoso del sesso. Ma nacque una bimba gentile, con un sorriso dolcissimo, e tutto fu perdonato. Ma io non perdonerò mai, e quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante. Ma fu io ad essere oltraggiata, io che salii sopra i cieli per aver concepito una genesi. Le visite a casa continuavano sporadiche. Rimasi incinta per la 4ª volta. Passai 9 mesi in uno stato di totale depressione e quando nacque mi fu strappata via, come l'altra. Dei miei molti rami, delle mie figlie adorate, io non so nulla. Quando le vedo le spettine, hanno chiome grondanti e precise e loro si arrabbiano come puledrine avverse. Delle mie 4 figlie io non so nulla, se non che le sento nelle mie viscere. Thank you. questo tarlo ossessivo della scrittura. Ma avranno memoria del mio amore per loro, nelle mie poesie. E spero capiranno. Non era il neon del corridoio del manicomio. E pensai che era bello accettare anche il male. Una delle prerogative del poeta, che è stata anche la mia, è non discutere mai da che parte venisse il male. L'ho accettato ed è diventato un vestito incandescente. È diventata poesia. Ecco. Il cambiamento della materia che diventa fuoco. Fuoco d'amore per gli altri. Anche per chi ti ha insultato. In fondo io la vita l'ho goduta tutta. A dispetto di quello che vanno dicendo sul manicomio. Io la vita l'ho goduta perché... perché mi piace anche l'inferno della vita. E la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella. Perché l'ho pagata cara. Perché l'uomo è socialmente cattivo, è un cattivo soggetto. E quando incontra una tortora, qualcuno che parla troppo piano, qualcuno che piange e getta addosso le proprie colpe, e così nascono i pazzi. Perché la pazzia, amici miei, non esiste. Esiste soltanto nei riflessi onirici del sonno e in quel terrore che abbiamo tutti, inveterato, di perdere la nostra ragione. Sotto le porte dell'ospedale si giocava a me, uno, due, tre, la pedina. Thank you. Alessandro Fea, coautore dello spettacolo La chiamavamo Terra Santa e autore delle sonorizzazioni e live music. Lo spettacolo sarà in scena a Roma, al Teatro Cometa Off, 15 e 16 aprile 2025. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci, è sempre un piacere. Parlaci di questo nuovo progetto. Questo progetto nasce un po' da un altro lavoro precedente che ti ricordo anche visto, dedicato all'amore di Alda Merini. Abbiamo fatto uno spettacolo teatrale musicale sulle sue poesie, sulla parte più appunto legata alla sua visione dell'amore. Invece questa volta, insieme a Stella Novari, che è l'attrice protagonista dello spettacolo, abbiamo riscritto completamente il testo e creato uno spettacolo in cui si partiva dai suoi diari, ovvero sia dalla sua prosa, che è una cosa che ha sempre affascinato sia me che lei, perché è la parte un po' meno conosciuta di Alda Merini. In realtà, secondo noi, invece, la parte veramente più profonda, più piena di aneddoti, pensieri, di riflessioni, di una profondità che leggendo quei diari ti rimane veramente a bocca aperta nel percepire come questa donna abbia veramente colto di se stessa e dell'essere umano, uso proprio questa parola, proprio dell'essere umano, la profondità. Molti diari sono stati scritti o comunque hanno fatto parte del periodo in cui lei è stata internata più volte, no, in manicomio, quindi c'è anche un grossissimo lavoro sulla sofferenza. Infatti il titolo dello spettacolo parte proprio da questa sua poesia famosa sulla Terra Santa, un testo di poche righe molto bello, in cui sostanzialmente si parla di questa visione che si ha dall'interno del manicomio, della sofferenza umana, per arrivare poi a una sorta quasi un po' di elevazione mentale, quasi spirituale, legata alla sofferenza. Ed è molto bello affrontare questi scritti perché, a parte il tema dei manicomi, è stato un tema comunque importante, enorme, di cui si dibatte ancora oggi per mille motivi. E in più lei dà questa, io la chiamerei proprio forza, che viene fuori dai suoi scritti, dal suo vissuto, perché pensare solo, immaginare quello che può aver vissuto questa donna e nonostante tutto esserne uscita in maniera comunque propositiva, carica di vita, insomma, fa riflettere sullo spessore proprio anche umano di questa donna. E il focus che abbiamo messo principalmente sotto i riflettori è il suo essere madre, il suo essere moglie, il suo essere donna, questo suo interrogarsi spesso sul suo essere, cioè è bellissimo il rapporto che ha con le figlie, durissimo, anche estremamente duro, quello col marito, non ne parliamo, col suo essere proprio anche donna, perché comunque all'interno del manicomio c'è tutto un discorso poi che lei affronta sul rapporto tra uomini, donne, medici, infermieri, tutta una serie di dinamiche complesse, durissime, insomma, quindi è uno spettacolo anche molto ironico. Abbiamo voluto con Stella proprio anche mettere il focus, secondo noi, anche su come lei scrive di tante cose, no? Per cui questa sua ironia incredibile che riesce a tirare fuori, secondo me è uno dei lati che a me ha sempre affascinato, perché secondo me era anche una donna che aveva una capacità di essere ironica, autoironica e forte, che veramente noi speriamo che questo arrivi al pubblico, perché insomma è un po' quello su cui ci siamo un po' soffermati, perché poi io spesso vedo che si parla delle poesie, si parla della sua visione spirituale alta, però è stato bello anche mettere mano nell'essere umano, che scopri delle cose incredibili veramente proprio. E tra l'altro il lavoro che ha fatto anche Stella Novari proprio sul discorso attoriale è complesso, perché a livello registico abbiamo provato proprio a ricreare una situazione che non sia solo focalizzata sulla sofferenza, ma anzi sulla sua, ripeto, enorme capacità di reazione, che a me questo ha sempre colpito di lei, perché insomma, ripeto, solo immaginare quello che può aver vissuto ti viene la pelle d'oca, insomma, quindi a un certo punto da qualche parte questa una forza interiore ce l'aveva, perché se no, insomma, non si spiega. Come avete immaginato la messa in scena? Abbiamo voluto un po' ricreare appunto l'ambiente un po' interno del manicomio da una parte, dall'altra la sua casa, insomma, quella con cui ha vissuto in quegli anni col marito e con le figlie, quindi andava e veniva, perché poi è stata internata varie volte. E poi al centro abbiamo creato uno spazio atemporale in cui lei si rivede un po' bambina, c'è questo gioco, diciamo, a tre ruoli, molto difficile dall'alto a livello attoriale, quindi devo fare un grosso complimento a Stella per come ha vissuto e come sta lavorando proprio per mettere in scena tre situazioni. È un po' un'idea che ci siamo fatti proprio sul discorso di non fare vedere appunto solo una parte, ma tutto il suo percorso mentale, perché lei quando usciva dal manicomio spesso si chiedeva se non stesse meglio dentro, perché c'è quel famoso concetto medico, psicologico, si chiama della spedalizzazione, che è una cosa che abbiamo voluto mettere molto a fuoco sul fatto che poi ti rendi conto che in realtà dopo un po' che stai in un certo posto pensi che non ci sia altro e che quindi non riesci a staccarti paradossalmente, capito? Una sorta quasi di assefazione. E questa è un'idea molto forte, perché lei usciva e si trovava confusa, perché poi immagina anche che, ne so, che le figlie crescevano, il mondo cambiava, e quindi lei stessa poi si chiedeva: ma dove sto meglio, tra virgolette? Ed è forte questo concetto, se ci pensi. Comunque l'idea che non è che uno viene curato e poi esce, tutto è finito, no, è stato un ciclo continuo di entra esci, appunto, in cui lei si chiedeva il rapporto con le figlie ogni volta che succedeva, perché poi la parte delle figlie, ci sono tra l'altro delle interviste bellissime su come loro vedevano questa madre, no, perché poi noi vediamo lei, ma in realtà intorno a lei c'era un mondo, quindi appunto il suo sentirsi madre, però madre magari anche non accettata, o lei stessa non accettava certe cose del suo rapporto con le figlie. Questo è un lato veramente che a me ha toccato molto, perché effettivamente uno ci pensa poco al suo lato di madre, umana, semplice donna, diciamo tra virgolette, che è esistito, insomma, aveva avuto 4 figlie, quindi un mondo. Ci dai i riferimenti web per tutti i dettagli? Sul sito poi della compagnia Sophis, insomma, si trova tutto. A presto. Grazie, grazie a voi, vi aspettiamo. Ciao, grazie. Alessandro Fea, coautore dello spettacolo La chiamavamo Terra Santa e autore delle sonorizzazioni e live music. Lo spettacolo sarà in scena a Roma, al Teatro Cometa Off, 15 e 16 aprile 2025. Lo spettacolo Ovunque sarà Roma, di Massimiliano Di Mino, voce e musiche di Pino Marino. Che accompagnavano la strada si spegnevano una dopo l'altra, lasciando il passo ad altre che si accendevano giusto il tempo di lanciare flebili riflessi lungo il fiume e arrampicarsi sulle facciate dei grandi palazzi. Roma era enorme e a guidarlo verso il suo centro erano queste voci che si trascinavano ora come un lamento e che si innalzavano di tanto in tanto come una richiesta d'aiuto. Nessuno a seguirlo e nessuno che lo precedeva. Eppure Dante aveva la netta sensazione di essere osservato e la certezza di apparire a chi che sia piccolo, piccolissimo, un ragazzo e nulla più. «Scusami, ragazzo, non t'avevo visto!» gli urlò un cocchiere dietro che gli aveva tagliato pericolosamente la strada col suo carretto gremito di donne e bambini, costringendolo a gettarsi a terra per non essere travolto. «Viva la Repubblica! Viva la Repubblica!» gridò allontanandosi l'uomo a cui fecero eco i bambini. Mentre cercava di rimettersi in piedi, Dante vide il barroccio farsi strada e scomparire dietro un numero di persone che, festanti, alzavano le braccia verso l'alto. Era giunto in una piazza. Una folla enorme si stagliava contro un palazzo giallo. Dante si avvicinò. Le urla erano le stesse. «Viva la Repubblica Romana! Viva Garibaldi!» Disordinatamente uomini e donne, vecchi e giovani, e anche i bambini, issati a cavalcioni sulle spalle dei genitori, avanzavano verso il palazzo che doveva essere un convento. Da un lato alcune anziane trascinavano delle siede e si univano a un gruppetto che a mani conserte stava salmodiando una preghiera. o altro, che il ragazzo sinceramente non riuscì di capire. Un uomo che teneva a tracolla una fascia tricolore urlava un qualche discorso issato sopra un armadio rovesciato che gli faceva da palco, e su questo camminava avanti e indietro, ora con il busto ridicolmente piegato e le mani giunte, ora brandendo con fare fiero una spada immaginaria. Ai suoi piedi c'era un grosso canestro destinato alle offerte. I bambini timidi si facevano avanti gettando nel grosso cesto quello che gli avevano dato in mano i genitori. Sulla destra, una fila più lunga delle altre. Era composta da soli uomini, tutti armati, chi di solo coltello o da un bastone uncinato, chi tutto orgoglioso mostrava e passava di mano in mano la sua carabina o delle lance a lunghe punte. Sembravano impazienti di notizie. Di tanto in tanto Dante, che si avvicinò confondendosi nella folla, poteva vedere in qualche scintillio di lance e baionette, sempre annunciato da qualche grido festante. E se da un lato arrivavano le voci delle beghine intente a pregare, erano in molti a ridere sulle braghe sbracate del prete peggior nemico della Repubblica. Davanti a un cancello del convento stazionavano due carrozze piene di campanelli, che venivano fatti suonare da due ragazzi che distribuivano vino alle file degli uomini che accendevano le grida con qualche benedizione lanciata alle finestre superiori del convento. Quando si aprirono i portelloni del convento, fu tutto un applauso e anche Dante imitò. Una truppa in casacche blu scure uscì dal palazzo e fece segno alle persone di smetter pure di applaudire. In testa indossavano cappelli di feltro nero e larghe tese spioventi, alcune con delle piume nere, che si sfilavano con un inchino per ringraziare delle ovazioni. Ma i romani non si accontentavano e urlavano rivolti verso quelle persiane chiuse il nome di Garibaldi. «Non s'affaccerà! Non s'affaccerà!» sentì dire da una voce dietro di sé Dante, che si voltò e vide un ragazzo moro dal naso adunco, di circa la sua età. Dante, non sicuro che questo si rivolgesse a lui, non rispose e si rigirò. Ma il ragazzo era proprio con Dante che ce l'aveva. «Vuoi scommettere che non s'affaccerà? Te dico che non s'affaccerà!» Ma Dante ancora non gli prestò attenzione. «Oh, non sei uno dei morto parole tu, eh?» «E perché non si dovrebbe affacciare, Garibaldi?» chiese Dante con tono iroso ma senza volgere lo sguardo al ragazzo. «Ancora non lo conosci, il generale? Dovresti farlo, dovresti conoscerlo, anzi te basterà guardarlo. A me m'è bastato, l'ho guardato e lui m'ha cambiato». «Perché, com'eri prima?» si rivolse incuriosito Dante al giovane, ora girandosi per guardarlo meglio. «Beh, prima di tutto ero più alto». Dante lo guardò spalancando gli occhi come fosse un bue. «Si chiama ironia! Si chiama ironia!» si mise a ridere quello. «Ma lascia sta! Ora il generale dorme! Gli rimarranno sì e no un paio d'ore di sonno!» «Ma come fa a dormire con tutto questo baccano? Perché non ordina ai suoi uomini di sgombrare la piazza?» «Già, e perché non ci caccia a tutti, pure a me e a te? Oh, dimmi, ma sei venuto qui a pregà o a ruolarti?» «Sono appena arrivato a Roma». «E come sei entrato?» fece stupito il ragazzo. «Anzi, lascia sta, non me lo di. Il generale non fa sgombrare la piazza perché conosce il popolo. Sa che per questa gente è importante sta qui, è importante sentirlo vicino, festeggiarlo e anche pregarlo». «Ma i preti sono stati cacciati», disse con tono di sfida. «Oh, sei uno curioso te, eh? Sta gente è nata e cresciuta tra penitenze, dazi e padri nostri. Non gli puoi abbandonare e di lasciar Dio suo. Loro ci hanno bisogno di crede». «Non capisco». «Non è detto che sia necessario capire, sai? Allora che devi fare? Pensi da rolatte? Ma tu chi sei? Una sorta di precettore?» Il ragazzo sorrise senza rispondere e gli porse la destra. «Piacere, Nino! Nino Costa! Se te vuoi arruolà, non c'è bisogno che fai la fila. Vieni con me, te presento io». «Ma tu conosci veramente Garibaldi?» «Oh, gli dovrò pure di qualcosa, tipo generale, te presento, generale, le presento, mi servirà un nome». «Dante Rossetti». Dante, mi piace. Generale, le presento Dante che è arrivato a Roma da... Da dove sei arrivato? Da Nizza. Nizza? Dio santo, sta cosa farà un piacere di sicuro al generale. Ora andiamo, c'ho voglia di beve. È inutile restare qui tutta la notte. Tanto, non s'affaccia. Poi vorrei pure mangiare qualcosa. Bisognerà trovarti un posto dove sta a dormire stanotte. E un'arma, ce l'hai? Ce l'hai un'arma? Dante lasciava parlare Nino, ma non si muoveva di un passo. Andiamo, Dante Rossetti, te porto a beve. Se vogliamo combattere insieme, dovrai cominciare a fidarti. Stai nella Repubblica Romana. Qui non c'è posto per spie o traditori d'esorta. Dante, suo malgrado, si trovò a camminare di fianco al ragazzo, stordito da quel fiume di parole e arrancando per strade, piazze, vie, viuzze, giù per tutto il corso fino a sorpassare la maestosa porta del popolo. «Felice Faustoque ingressui», disse Nino. «Come?» «Che l'ingresso a Roma ti sia felice, Fausto, Dante!» Così è scritto sulla porta. Nino provava a spiegargli tutto, di chi era quel palazzo, e poi a indicargli ogni locale che incontravano, e i nomi e le storie di chi appartenevano, e a dire di quel sentore comune che nato a Roma avrebbe di certo pervaso l'Italia intera. «L'ora della resurrezione romana è tuonata!» ripeteva di tanto in tanto come per istruire Dante su quella certezza. Dovevi vederli, Dante, quando sono entrati? Stavamo a bocca aperta. La terra era tutto un crepitio e poi eccoli a sfilare, sti guerrieri a cavallo, uno dopo l'altro, belli, e ste facce, come statue, i volti bruciati dal sole coi capelli lunghi e arruffati che uscivano da sti copricapi con tutte le piume nere ondeggianti, erano pieni di polvere, e ste barbe lunghe, lo sguardo di chi non conosce un letto da tanto tempo, si schierano e lasciano il passo al loro capo che si fa avanti sul cavallo bianco. Garibaldi se guarda attorno, ci guarda a tutti e con voce melodiosa e penetrante saluta il popolo romano. Lo sguardo di Nino, quando parlava e lo faceva di continuo, si assentava e non guardava mai un punto fisso, eppure ogni sua parola sembrava dettata da un'immagine che solo lui poteva vedere. Dante, invece, sopraffatto dalla stanchezza e dalla bellezza della città, parlava poco. In compenso osservava avidamente ogni cosa. Erano arrivati al Giannicolo. Dalla terrazza il panorama abbracciava tutta Roma. Era impossibile non sentirsi piccoli. Doveva essere questo il pensiero di Dante, che voltava la testa a destra e a sinistra, muovendo le labbra come a voler enumerare o dare un nome a ogni palazzo, abitazione o luce che nel buio salutava. Non diversi erano i sentimenti di Nino, che Dante notò aveva gli occhi lucidi. Il generale ha detto che sarà difficile, che proveranno a riprendersi tutto. Ma tu pensi che valga la pena, Dante? Sì. Ripresero a camminare, Dante, esausto, chiese al compagno di fermarsi. Ma Nino gli assicurò che erano ormai quasi arrivati. L'osteria si chiamava da Filo Marino. Nonostante il tardo orario, il locale era pieno e i due faticarono un po' prima di trovare un tavolo. Le voci e urla si accavallavano di continuo. C'era chi giocava a mor, chi ad altri giochi con la conta e il bicchiere di vino, che veniva tracannato con confidenza e senza alcun complimento. Un altro uomo chiese a Nino di unirsi al tavolo e fare questo gioco della passatella, ma Nino declinò l'offerta. Trovato un posto da due, si accomodarono. «T'avrebbero fatto ormo!» disse Nino a Dante, che chiese cosa volesse dire. «Che significa?» «Che t'avrebbero lasciato a gola secca!» «E perché?» «È un gioco, Dante, è un gioco, è un gioco. A noi romani ci piace giocare, e ci piace ancora più de ride. Anche quando non ci sarebbe motivo per farlo, t'assicuro. Ma questo non è un problema, perché vedi, dopo 2 giorni che stai qui, tutti diventano romani.» L'oste arrivò con un litro di rosso che non era mai stato ordinato, rivolto al giovane ufficiale, e chiese cosa volessero mangiare. «Portaci 2 maccheroni, oste!» E rivolto solo al nizzardo aggiunse: «È il piatto preferito dei Garibaldi.» Alla seconda foglietta, complice la stanchezza, Dante era ormai quasi ubriaco e l'oste aveva avvisato che da lì a breve avrebbe chiuso. Il locale cominciava a svuotarsi e tutti si accomiatavano inneggiando alla Repubblica Romana o al generale. Ma da un tavolo in fondo alla sala si alzò un uomo che, rivolto all'oste, cantilinando, disse: «Infine un rosso, o forse 2, io vorrei, non paternostri e giubilei.» «È Angelo Brunetti, Dante, detto Ciceruacchio», spiegò Nino. «Dobbiamo molto a lui se oggi stiamo qui e se qui c'è pure Garibaldi e domani saremo in battaglia.» Ciceruacchio, con passo malfermo, si avvicinò al tavolo di Nino e Dante. «Ehi, Nino, tu che fai, non vieni via? È importante anche dormire. Anzi, aggiungerei che è un nostro dovere. Il sonno è compagno della morte e quella è meglio fasse l'amica.» «Il nostro Ciceruacchio è un grande filosofo», disse Nino. «A tempo perso», specificò l'uomo accarezzandosi i baffi, «che se poi lo perdi non lo ritrovi più.» «Stavamo giusto andando via pure noi, Ciceruacchio, te presento Dante Rossetti, è arrivato oggi per dare una mano alla Repubblica.» «È un piacere», disse l'uomo, «e fate ringraziare de core.» «Il piacere è mio», rispose biascicante Dante. «Dante c'ha bisogno di un letto, dove sta stanotte, dormi qualche ora, mi puoi aiutare?» chiese Nino. «Detto e fatto, amici miei.» Ciceruacchio fischiò e urlò: «Andreas! Andreas!» Dante vide avanzare a passo lento un gigante, nero, nerissimo, più scuro del cuoio. Vestiva con una specie di tunica nera e aveva le braccia e le cosce muscolose coperte da strani, stranissimi disegni che gli coprivano interamente il corpo. Dante lo guardò, anzi lo fissò, in maniera stranunata dal capo ai piedi, come per assicurarsi della sua altezza e che non lievitasse come gli angeli. «Tenente!» si alzò in piedi Nino. «C'è anche lei, tenente, Andreas Ghiar. Le presento Dante Rossetti. È venuto a aiutarci!» I due si strinsero energicamente la mano. «Non è che gli starà a piace troppo sto vino dei castelli, tenente?» chiese scherzoso Nino. «C'è da giuracce!» precedette ogni risposta Ciceruacchio. «De sto passo, da nero il tenente nostro ci diventa rosso! Ma è sempre meglio puzzare di vino che d'acqua santa!» E tutti risero. Anche il Moro rise. Uno squarcio in faccia, una fila di denti bianchissimi illuminò il suo viso. Dante non riusciva a distogliere gli occhi di dosso. «Tenente, il giovane Rossetti viene da un lungo viaggio e c'ha bisogno di dormire. Potrebbe stare nella sua stanza stanotte?» chiese Ciceruacchio ad Aguiar. «Non hai problema», disse il gigante. E ancora quello squarcio, quel sorriso. Un baluginio lontano nella notte che andava a finire. Il tenente Andreas Ghiar, il Moro, coraggioso combattente uruguaiano che seguì Giuseppe Garibaldi prima in America Meridionale e poi in Italia, trovò la morte a Trastevere colpito da una granata francese. Il capopopolo Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio, dopo la caduta della Repubblica Romana cercò di raggiungere Venezia, ma arrestato dagli austriaci fu fucilato insieme al figlio Lorenzo di soli 13 anni. Giovanni Costa, detto Nino, pittore esponente della scuola dei marchiaioli, partecipò a tutte le campagne garibaldine del 1849 e nel 1869 era ancora pronto a credere, nonostante la disfatta avvenuta a Mentana, ad un'altra Italia. Di Dante Rossetti si sa che vinse e perse molte battaglie al fianco del generale e fino all'ultimo dei suoi giorni seguì i suoi ideali vivendo nell'unica maniera gli sembrasse sopportabile vivere. Spettacolo Ovunque sarà Roma di Massimiliano Di Mino, voce e musiche di Pino Marino. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Monia Vadia in veste di attore per presentare lo spettacolo Moby Dick di Herman Melville, adattamento Micaela Miano, regia Guglielmo Ferro. A Roma al Teatro Quirino dal 1 al 13 aprile 2025. Ben trovato. Grazie. Un caro saluto agli ascoltatori e grazie per l'invito. Cos'è questo nuovo impegno? Io sono qui nella veste di attore in un ruolo molto stimolante, molto forte, che è quello del capitano Huckabee, il capitano della baleniera Pequod, con la sua ossessione di trovare e uccidere la balena bianca, che è diventata così una metafora della natura immensa e poderosa, e lui che vuole sottomettere la natura, la tensione,

con la storica Stefania Ficacci del progetto Ottava Zona per presentare Nidi di Vespe, la primavera della resistenza romana, in vari quartieri di Roma dal 3 al 16 aprile 2025. Ben trovata! Ciao Federico, ben trovato! Partiamo dal progetto Ottava Zona. Cos'è? Il progetto Ottava Zona raccoglie tante realtà del Municipio Quinto, sono associazioni culturali, sono centri, sono spazi sociali, sono tutti i cittadini e tutte le cittadine che si riconoscono appunto nei valori della resistenza, della lotta di liberazione dal nazifascismo e ne promuovono la ricerca, ne promuovono la restituzione. E da qui è nato questo gruppo 4 anni fa in cui ci siamo riuniti appunto anche per festeggiare questi lunghi 80 anni di liberazione. Perché Roma li ha festeggiati lo scorso anno e l'Italia li festeggia quest'anno. Nidi di Vespe, di cosa si tratta? È un rimando da quella definizione che è stato il Quadraro, è stata parte di Torpignattara, ma anche degli altri quartieri storici del Municipio Quinto, cioè il Nido di Vespe, che era quello tanto temuto dalle truppe nazifasciste di occupazione della città di Roma. E non è soltanto un nido, ma sono tanti nidi di Vespe, perché proprio questa zona della città, che era l'ottava zona partigiana, essendo sulla via Casilina, sulla via Tuscolana, sulla via Prenestina, era una zona particolarmente temuta dall'occupazione nazifascista, anche perché era strategicamente fondamentale, perché il fronte era a Cassino e poi sarà quello di Anzio dopo lo sbarco del gennaio del 44, e quindi qui si è concentrata la maggior parte dei numeri anche delle formazioni partigiane che hanno lottato per supportare l'avanzata degli alleati per la liberazione della città. Come è strutturata la rassegna? La manifestazione è in questi giorni dal 3 al 16 aprile, ma ci sono anche eventi che sono già in parte cominciati e sono in attività fin dalla metà di marzo, e sono incontri di storia, sono letture pubbliche, sono lezioni, sono restituzioni di quella tanta ricerca che si fa durante tutto l'anno, perché questa zona è viva per 365 giorni l'anno, che si occupa in maniera continua di cercare di ritrovare la memoria, di ricostruire la storia di quei 9 mesi di occupazione. Quindi noi cogliamo l'occasione con queste giornate per restituire a tutta la cittadinanza anche tutti quei risultati delle nostre ricerche, dei tantissimi giovani, veramente mi piace evidenziarlo, dei tantissimi giovani ricercatori, giovani ricercatrici che trovano interesse proprio in questa zona, nella storia e nella memoria di questi quartieri. Più o meno quanti sono gli appuntamenti? Sono incontri quotidiani, quindi possiamo dire che ci ritroviamo almeno in 30, in 35 momenti di incontro quotidiano che vanno dall'alba al tramonto, proprio per ricordare tutti gli episodi che hanno attraversato questo periodo dell'occupazione nazifascista. Partiamo sulla osservazione delle fosse ardeatine, perché il contributo in vite umane che gli uomini di questi quartieri hanno dato, le vittime della strage delle fosse ardeatine, sono numeri veramente importanti per i nostri quartieri, e dietro questi uomini c'erano tante famiglie, c'erano soprattutto tante donne. Poi vogliamo ricordare ovviamente il 17 aprile, quindi il rastrellamento del Quadraro, e poi allungarci chiaramente alla meravigliosa festa nazionale che è quella del 25 aprile. Quindi veramente ogni giorno tutta una serie di eventi che coinvolgono le scuole, che coinvolgono i cittadini, che coinvolgono le associazioni locali, coinvolgono tutte le generazioni. Ecco, questo credo che sia veramente importante sottolinearlo, in tanti luoghi, che sono i luoghi di aggregazione, che sono gli spazi di socializzazione, dai parchi agli esercizi commerciali, alle strade, alle sedi delle associazioni, per ricostruire, diciamo così, un mosaico di memoria, ma anche e soprattutto di restituzione e ricostruire questa trama meravigliosa che è la storia dell'ottava zona di questa città. Quante sono le strutture di zona che contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione? Noi siamo oltre 15 realtà, ci sono associazioni che si occupano di ricerca come sono Bella Storia, come l'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros, come sono per esempio le associazioni invece che si occupano di restituzione della memoria, come è il Quadracoro, questo coro appunto che restituisce attraverso la musica il racconto del rastrellamento del Quadraro, poi ci sono le sezioni provinciali e ci sono le sezioni locali dell'ANPI, ci sono anche Casale Garibaldi, Fusolab, ci sono i comitati di quartiere, quindi è veramente un quadro completo di tutte quelle realtà, di comitati e di associazioni che si occupano di conservare e di restituire la memoria di questi quartieri. Ci sono dei riferimenti internet per il programma? C'è la pagina Facebook di Ottava Zona, c'è un'email a cui potete scrivere che è ottavazonafestival@gmail.com. La manifestazione Nidi di Vespe, la primavera della resistenza romana in vari quartieri della città dal 3 al 16 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento alla storica Stefania Ficacci del progetto Ottava Zona. Alla prossima! Grazie, grazie a tutti e vi aspettiamo numerosissimi. Con la ricercatrice Giulia De Rocco per il saggio Aboliamo il carcere, immaginare un futuro senza prigioni. Ben trovata. Buongiorno, ben trovato Federico, grazie. Cos'è questo saggio? È un piccolo saggio sull'idea di abolire il carcere. Ho cercato di renderlo un progetto concreto immaginandomi in un futuro prossimo in cui si è realizzato. Come è nato il progetto? Dalle discussioni che ho avuto con amiche, amici, amico rispetto alla possibilità di superare alcune logiche punitive che ci incastrano anche nelle nostre quotidianità di relazioni, di movimento e anche dalla mia esperienza come attivista e volontaria in carcere. Che tipo di ricerca è stato? Mi sono occupata per tanti anni di condurre gruppi di lettura e di scrittura autobiografica in carcere, quindi principalmente è stata una ricerca che mi ha vista fortunata di incontrare tante persone che sono detenute e che mi hanno raccontato le loro storie. Poi nella mia ricerca all'università, io mi occupo di educazione, ho cercato di capire come queste storie potessero trovare il modo per uscire e come fossero un indizio della necessità di superare gli istituti di pena, perché non servono, fanno male e sono la risposta a un bisogno che possiamo soddisfare in altri modi. Che quadro emerge da tutte queste interviste? Principalmente il fatto che il carcere è un luogo in cui si sta male e che è sintomatico di una struttura sociale che prevede la punizione come risposta a un danno o a un reato. Danno e reato non sono la stessa cosa, nel libro cerco di spiegarlo. E anche l'assurdità di vivere in un luogo nel mondo in cui abbiamo ancora bisogno di chiudere delle persone in gabbia, perché in carcere le persone sono in gabbia per tanto tempo, e tra delle mura spesse da cui non si può uscire, quindi provvedere alla risoluzione dei conflitti, alla guarigione dal danno attraverso l'esclusione sociale completa delle persone è inutile e dannoso. Ecco, questa è un po' la conclusione a cui siamo arrivati insieme a tanti e tanti, non sono la prima, chiaramente ci tengo molto a dire che è l'esito di incontri, letture, anche conflitti, anche domande che sono il frutto di relazioni con altre persone, ecco. Esistono esempi societari virtuosi in questo senso? Non so risponderti a questa domanda e ti direi di no, nel senso che le carceri sono diffuse in tutto il mondo e sono la risposta in tutto il mondo ai conflitti. Ci sono degli esempi molto interessanti di processi di gestione del danno diversi da quelli della detenzione. Ci sono delle esperienze molto interessanti negli Stati Uniti in cui comunità razzializzate o comunque comunità minorizzate attivano dei processi diversi per gestire conflittualità interne. Chiaramente poi c'è lo Stato che comunque continua ad agire dei processi di detenzione, quindi in generale non esistono stati in cui non ci sono gli istituti di pena. In particolare esistono molte esperienze molto interessanti di comunità che si attrezzano diversamente. Come è strutturato il saggio? La cosa un po' particolare del saggio è che ho voluto strutturarlo come una narrazione distopica. Mi sono immaginata un futuro prossimo in cui non ci sono più gli istituti di pena e ho provato a guardarmi indietro e a descrivere qual è stato il processo che ha portato all'abolizione del carcere. Quindi è una sorta di lunga lettera in cui descrivo quale potrebbe essere il processo di abolizione e di superamento degli istituti di pena. Che tipo di circuitazione hai pensato per questo volume? Questa è una domanda interessante perché penso di averlo scritto principalmente perché ho molta voglia di parlarne con tante persone. Per ora abbiamo, grazie all'aiuto fantastico della casa editrice, abbiamo usato i circuiti che Eris, che è una casa editrice militante, ha già attivi. E poi mi piacerebbe soprattutto poterne parlare con delle realtà di movimento e delle associazioni che si occupano anche delle questioni della pena e della giustizia, per poter pensare anche di fare magari dei laboratori insieme su queste pratiche di giustizia diverse rispetto a quelle punitive. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Il sito della casa editrice, poi io ho recentemente aperto una piccola pagina Instagram che si chiama Penso l'abolizione, in cui provo a continuare queste riflessioni e raccontare anche l'esito delle discussioni che questo libro spero apra nelle varie realtà in cui viene letto. Il saggio Aboliamo il carcere, immaginare un futuro senza prigioni. Un saluto e un ringraziamento alla ricercatrice Giulia De Rocco. A presto! Grazie! È il momento dell'agenda per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Andiamo a cominciare, benvenute tutte e tutti a questo appuntamento con il Radio Teatro. Cosa c'è in questa settimana teatrale di Roma? Lo andiamo subito a scoprire. E allora partiamo, come spesso ci accade, dal Teatro Torbella Monaca, dove dall'8, cioè quindi da questa sera fino al 13 di aprile, un testo di Stefano Massini con la regia di Claudio Boccaccini. Si tratta di 7 minuti che trae spunto da un fatto realmente accaduto in una fabbrica tessile francese, dove alle operaie fu proposto il taglio di 7 minuti di intervallo su un totale di minuti 15. E partendo da questa vicenda, Massini, insomma, immagina queste 11 donne, questi 11 personaggi femminili che costituiscono la rappresentanza sindacale della fabbrica. Sono diverse donne per età, per cultura, per provenienza, però insomma devono trovare poi un luogo di incontro comune per questa vicenda. Nello stesso teatro, sempre il Teatro Tor Bella Monaca, un testo che affonda nella storia recente del nostro paese, una storia tragica, cronaca d'Italia in 7 stragi di mafia. Si chiama Il paese nelle mani, il testo e la regia sono di Nicola Zavagli, mentre invece in scena ci sarà Beatrice Visibelli con la firma di Teatri d'Imbarco. Quindi si raccontano quei 3 anni di stragi di mafia dal 1992 al 94, insomma ne sappiamo un bel po' di tutto questo. Allora io invece andrei intanto nell'immediatezza a raccontare del Festival Contemporaneo in Futuro, che è un po' una delle attrattive della settimana, ma siccome ci sono un sacco di appuntamenti voglio andare subito all'obiettivo. Insomma, il festival dedicato alle nuove generazioni, dal 9, da domani, fino al 13 di aprile, il Festival del Teatro di Roma, appunto dedicato alle nuove generazioni, a cura di Fabrizio Pallara. Vedremo un bel po' di spettacoli, una vetrina nazionale, insomma, su un argomento importante a livello nazionale e internazionale, e anche una riflessione sulle pratiche e sulle narrazioni contemporanee, così come vengono portate sulla scena dalle compagnie che di questo maggiormente si occupano. La programmazione è molto ricca, ci sono 12 spettacoli e ben 2 incontri, appunto, per questo momento, questi momenti di riflessione. Si comincia il 9 aprile al Teatro Torlonia, il festival si articolerà tra il Teatro India e il Teatro Torlonia. Si comincia al Teatro Torlonia domani con Hansel e Gretel della compagnia Campsirago Residenza, diretta da Michele Losi, un lavoro nella natura che ha a che vedere con lo spazio e con la costruzione del rapporto tra l'uomo e la natura. E poi insomma seguiranno molti spettacoli, vado a segnalare qualcosa qua e là. Segnalo giovedì Annalisa Limardi, che porta in scena No, una performance per definire sulle difficoltà di definire i propri confini personali. Giovedì 10 aprile sempre al Teatro Torlonia, sempre al Teatro Torlonia, mentre invece all'India si va da venerdì 11, dove la compagnia Le Scimmie presenterà Per Atena, questo spettacolo del mattino pensato più per i ragazzi un po' più grandi, insomma la generazione delle scuole medie, per capirci, della preadolescenza, e si tratta di un testo di Ciro Burzo, interprete insieme a Carlo Geltrude, che ne è anche il regista. E segnalo anche, poi insomma, sono vari spettacoli, invito sul sito del Teatro di Roma, sono raccontati tutti molto bene, dal Teatro India sabato 12 arriverà anche Meraki Teatro, poi Chiara Frigo successivamente con il suo spettacolo, la sua performance, e insomma vedremo un po' di cose anche provenienti da paesi stranieri. E io segnalo sicuramente una cosa che mi fa piacere segnalare al Teatro Torlonia, intanto prima di tutto alle ore 19 di sabato Charlie Gordon di Teatro Medico Ipnotico e Teatro Caverna, i burattini di Patrizio Dall'Argine con una creazione ispirata al romanzo distopico Fiori per Alger Mond di Daniel Keyes, mentre invece domenica 13 aprile al Teatro India sicuramente il lavoro della Baracca Testoni di Bologna, A un metro da te, segue un altro lavoro che direi molto importante, L'Arlecchino di Zaches di Luana Gramegna. La giornata si conclude il tardo pomeriggio con Fratelli, firmato dal Teatro La Ribalta, e insomma un ultimo giorno davvero scoppiettante. Invito tutti ad andare a vedere qualcosa in questo festival sul sito teatrodiroma.net per le informazioni più precise. E noi andiamo avanti, perché allora intanto Carrozzerie Not, per vedere questo concept di Pietro Angelini e Pietro Turano, primo studio, in realtà precisamente 11-12 aprile alle ore 21, un'indagine performativa sui desideri erotici e romantici maschili intercettati online, quindi qualcosa di molto interessante e anche molto urgente rispetto a ciò che sta avvenendo nel nostro mondo attuale. Poi all'Auditorium Parco della Musica giovedì 10 e venerdì 11 aprile per vedere questo Secondo Lei, lavoro firmato da Caterina Guzzanti, con la stessa Guzzanti e Federico Vigorito. Si tratta del suo primo testo in prosa e la sua prima regia. È uno spettacolo sulla fragilità, un lungo, intimo flusso di pensiero dal punto di vista femminile sulle dinamiche che regolano i rapporti di coppia. Questo è quanto andremo a vedere all'Auditorium Parco della Musica giovedì 10 e venerdì 11 di aprile. Seguo con da domani fino a domenica all'Off of Theater questo Santa Maria della Pietà, testo di Luisa Casasanta e Orazio Rotolo Schifone, il quale si occupa anche della regia, e sarà anche in scena Luisa Casasanta con altri attori tra cui Elena Vanni, Edoardo Purgatori, e racconta di donne portatrici di una femminilità non conforme, libera, sfrenata, spudorata, e quindi insomma donne pericolose. Questa narrazione racconta appunto del Santa Maria della Pietà fino alla legge Basaglia del 78, questa realtà che oggi ci sembra lontanissima ma che in realtà è stata parte del nostro secolo Novecento. Quindi Off of Theater 9-13 aprile per Santa Maria della Pietà. E andiamo anche al Centrale Preneste questa settimana, perché è ingresso gratuito. You the Young City porterà venerdì 11 e sabato 12 aprile a vedere precisamente nell'ordine una creazione di Usine Baug e Fratelli Maniglio, Ilva Football Club, che è un lavoro molto interessante da segnalare anche per il nostro radioteatro, chissà, insomma, pensiamoci, di un lavoro molto interessante appunto che si situa nella città di Taranto, chiaramente, e parla appunto dell'Ilva, ed è una storia nella storia, insomma, la leggenda di una piccola squadra di calcio nata proprio sotto le ciminiere dell'Ilva per dare voce alle tante storie vissute a Taranto. Questo è l'11 aprile al Centrale Preneste, mentre invece il 12 arriva BAM Teatro con un testo e regia di Anna Piscopo, Me ne vado. Siamo in un bar sulla strada provinciale, le anime inquiete all'interno, l'ambiente male illuminato e vite marginali. Questo il paesaggio che vede in scena la stessa Anna Piscopo con Maria Albaima Riva, spero si pronunci così, sabato 12 aprile alle ore 21 al Teatro Centrale Preneste. Ma ancora andiamo al Teatro Palladium, dove 10-11 aprile, per la stagione del Palladium curata da Dams Roma 3, andremo a vedere, attenzione, 10 aprile al Dams alle ore 17 ci sarà un incontro, mentre invece l'11 aprile è al Teatro Palladium Alvin Curran con questo lavoro che si dedica come al solito insomma alla sperimentazione sonora e all'arte visiva. Si tratta di un compositore internazionale, figura centrale della sperimentazione musicale fin dagli anni 60, e insomma doppio appuntamento romano, lo vede prima al Dams di Roma 3 alle 17 e alle 10 aprile e l'11 aprile la sera al Teatro Palladium con questo spettacolo che ha come titolo Electric Rex e che risale al 1988. Quindi 10-11 aprile, Teatro Palladium, Alvin Curran. Poi al Festival delle Scienze, sempre all'Auditorium Parco della Musica, domani sera arriva la danza cieca di Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello. Attenzione, perché non avesse visto questo spettacolo, è qualcosa di assoluto, di particolarissimo, ed è un'esplorazione del gioco che c'è nel dispositivo poetico e creativo che apre al movimento. La danza nasce dall'incontro dei corpi, dove la dilatazione del tempo porta insomma questi due corpi a trasformarsi, a trasformare lo spazio, a trasformare la loro relazione in un atlante inesauribile di luoghi democratici. Questo ci viene detto dalla scheda di Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente con cui il coreografo ha avuto anni di ricerca e rispetto al movimento. Questo insomma da vedere al Festival delle Scienze di Roma, all'Auditorium Parco della Musica, mercoledì 9 aprile ore 21. E insomma, un bel appuntamento da non dimenticare, da non perdere assolutamente. Allora, invece, questo testo di Manuel Puig, Il bacio della donna ragno, sarà al Teatro Lo Spazio dal 10 al 13 aprile. Siamo in una prigione di Buenos Aires, anni 70, e si cerca di raccontare il riscatto di due vite eroiche perseguitate finché il loro desiderio di felicità insomma non fa esplodere in qualche modo questa prigionia fuori nello spazio che è quello della libertà. Quindi 10-13 aprile Teatro Lo Spazio per questo Il bacio della donna ragno. Ancora abbiamo di cose, L'Amleto in salsa piccante di Aldo Nicolai, la regia di Vanessa Gasbarri. Siamo al Teatro dei Servi di Roma, questo testo che è un Amleto inedito in bilico tra ironia e teatro dell'assurdo, scritto da Aldo Nicolai, grande autore del nostro passato, e portato in scena con molti attori, devo dire, da Vanessa Gasbarri, dall'8 fino al 20 di aprile, quindi si può stare un bel po' di più, insomma, in scena questa settimana. Allora, segnalo che al Teatro Vascello arriva Fabrizio Cifuni con questo doppio lavoro dedicato a Pasolini. 9-10 aprile, Il male dei ricci, tratto da Ragazzi di vita e altre visioni di Pierpaolo Pasolini, un'idea sempre di Fabrizio Cifuni, da Ragazzi di vita, da Poesia in forma di rosa, da Scritti corsari, Lettere luterane, seconda forma della meglio gioventù. E questo è quanto appunto vedremo in Il male dei ricci, mentre invece dall'11 al 13 torna Con il vostro irridente silenzio, questo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro, appunto ideato da Fabrizio Cifuni, che lo aveva già portato in scena negli anni precedenti, e torna quindi per una 3 giorni al Teatro Vascello. C'è ancora un po' di cose da ricordare. Allora, andiamo a segnalare che alla Fortezza Est, indubbiamente dovremmo andare a vedere Daniele Parisi con il suo nuovo lavoro che si chiama Non è uno sport acquatico. Siamo in scena dal 10 al 12 aprile. È un monologo che mette in gioco la straordinaria capacità di evocare più voci e personaggi attraverso una commedia tragica e grottesca. C'è un fatto inconsueto che sconvolge l'ordine delle cose, così per nascondere la miseria i personaggi si ritrovano a scomodare i massimi sistemi. Parisi affronta come al solito insomma con la scrittura scenica e la drammaturgia musicale con una loop station. Questo è qualcosa che avveniva anche nel precedente A volte Maria, A volte la pioggia, che ho visto e che mi è molto piaciuto, quindi tornerò a vedere Daniele Parisi 10, 11 e 12 aprile alla Fortezza Est. Poi in conclusione andrei al Teatro Trastevere, ecco, c'è da ricordare questo Pioggia di Franca De Angelis, con la regia di Christian Angeli, e in un futuro non troppo troppo remoto, ci sono V, Ma e Lu, sono vecchi, vecchissimi e probabilmente ultracentenari, amici da sempre, decisero anni fa di andare a vivere insieme per essere certi di potersi sostenere nel togliersi la vita qualora non fossero stati più nel pieno delle loro facoltà. E cosa succederà? Dall'8 al 13 aprile a scoprirlo al Teatro Trastevere. Che altro c'è da dire? Vediamo un po', qui insomma le cose stanno terminando, ma non prima di aver ricordato due spettacoli che vedremo in scena al teatro, allo Spazio Diamante, principalmente 11-13 aprile per tutti e due gli spettacoli, da venerdì a domenica. Il primo è 10 modi per morire felici, una drammaturgia di Emanuele Aldrovandi e Jacopo Giacomoni, lo stesso Aldrovandi ne è il regista. È un esperimento teatrale che attraverso un dispositivo performativo coinvolge ogni sera alcuni spettatori, sempre volontari, e permettendo a tutto il pubblico di seguire il viaggio di 10 vite possibili, così da interrogarsi sulla propria. Quindi un meccanismo interessante, quello di Emanuele Aldrovandi, per 10 modi per morire felici. Chiudo con questo lavoro di Elisabetta Tulli, sempre lo Spazio Diamante, che si chiama Le ragazze di Via Savoia 31, siamo nel 15 gennaio del 1951. Un fatto vero commuove tutta Roma, 200 candidate per un solo posto da dattilografa, la scala del palazzo dove erano in attesa del colloquio crolla e tutti questi personaggi, tutte queste donne, tutte queste donne che aspettano su quella scala crolleranno insieme a tutto il palazzo. Quindi un modo dall'11 al 13 aprile con Elisabetta Tulli per andare a scoprire qualche storia rimossa, dimenticata, questa volta con la lirica, in realtà, a quanto pare, perché si tratta, con la regia di Eugenio Dura, ecco, ma di un lavoro legato anche al canto lirico, ed è una storia questa a cui, insomma, mi sento particolarmente legato, un po' chi vive a Roma e l'ha scoperta, anche perché la storia è stata raccontata da Elio Petri in Roma Ore 11, che è stato poi ripreso dal gruppo Miti Pretese qualche anno fa, Manuela Mandracchia, Sandra Toffolati, Maria Angeles Torres e vado a memoria al Via Reale, le ho ricordate tutte, proprio per appunto portare in scena questa storia che mi fa piacere di ritrovare in altra forma, in un altro teatro, appunto allo Spazio Diamante, 11-13 aprile. Chiudiamo non prima di aver ricordato anche il Teatro Basilica, che dal 10 al 13 di aprile presenta questo sagoma, monologo per Luce Sola di Fabio Pisano, con Nando Paone insieme anche a Matteo Biccari in scena. La regia è quella di Davide Iodice. Si tratta di un lavoro interessante, è un attore e un tecnico luci chiusi in un teatro da un tempo indefinito, sono alla ricerca del controluce perfetto, uno appeso su una scala, l'altro appeso sul palco, condividono la precarietà di un mestiere e di una esistenza dove il baratro è solo un quarto di passo oltre il segno fissato. Quindi ecco, il teatro per leggere la condizione umana mi sembra interessante per arrivare a chiudere questo nostro collegamento. Dunque, con il teatro abbiamo concluso. Un saluto a tutte e tutti e buon pomeriggio. Ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.